Presente e buon ascolto a chi ci sta ascoltando. Iniziano le presentazioni di questa seconda giornata del Festival di Letteratura Sociale. Iniziamo con Donne contro, ribelli sovversive antifasciste scritte nel casellario politico centrale, edito da Zero in Condotta, è venuta così. Interverranno l'autrice Martina Guerrini e Marco Rossi. Adesso passiamo parola. Ricordiamo insomma a chi interviene di parlare per favore al microfono, visto che stiamo andando in diretta radio. Grazie a tutti, buon ascolto, buon proseguimento. Buonasera, ciao, sono Marco e a me è il compito di dire due parole di introduzione, visto che ho anche scritto la prefazione di questo libro di Martina, di questa ricerca di Martina, due parole appunto, di introduzione all'argomento. Il sottotitolo appunto avvisa che la ricerca riguarda le donne, in questo caso le sovversive del veneziano, iscritte nel casellario politico centrale. E quindi il primo punto è mettere a fuoco cos'è un casellario politico, cos'è il casellario politico centrale. Il casellario politico centrale è un archivio oggi consultabile, che ha funzionato per circa un secolo, praticamente dal 1884 e dintorni fino al 1984 e dintorni, per cui per circa un secolo il Ministero dell'Interno, tramite le questure, tramite le prefetture e le altre strutture dell'apparato repressivo, ha schedato i sovversivi, gli antifascisti, i ribelli sociali, dando modo poi appunto agli storici e ricercatori o anche ai semplici militanti o ai parenti addirittura di fare delle ricerche in archivio per ritrovare i documenti riguardanti appunto questi soggetti, queste persone schedate appunto da un punto di vista politico, per l'attività politica che hanno svolto. Si tratta appunto di un archivio molto esteso, ovviamente come tutti i materiali è un materiale che va maneggiato con cura perché evidentemente chi scriveva, chi redigeva questi rapporti, queste schedature non era una persona al di sopra delle parti ma era un funzionario di polizia per cui nello scrivere appunto rifletteva la sua ottica, la sua mentalità, la sua cultura che poteva essere appunto quella di un funzionario del regio Stato, del regio apparato di polizia prima del fascismo, in seguito appunto un funzionario dell'apparato del regime fascista e anche dopo la liberazione, molte volte senza soluzione di continuità, un funzionario di polizia che continuava a svolgere il proprio lavoro. La stragrande maggioranza degli schedati sono di sesso maschile, però c'è una percentuale considerevole di schedate. E in questo caso appunto si parla in particolare tramite appunto la ricerca di Martina, si tratta di capire come venivano schedate, in questo caso il campione utilizzato sono le sovversive di Venezia, ma è un campione che potrebbe essere generalizzato a qualsiasi provincia, compreso anche quella di Firenze, e cercare di capire appunto con quale criterio, con quale ottica, con quale logica venivano schedate queste persone, queste donne, che evidentemente erano logiche che oltre a mettere in luce l'attività sovversiva, l'attività rivoluzionaria di semplici oppositrici al regime fascista, evidenziavano evidentemente delle peculiarità tipiche appunto della lettura da parte del funzionario di polizia che appunto rifletteva pregiudizi, culture maschili sessiste, e appunto anche con la necessità di normare attraverso appunto la propria scrittura, la pretesa di normare anche comportamenti sociali. Detto questo, si parla di antifasciste e non si può non partire, così come parte il libro, da una figura che per certi versi è emblematica. Teresa Galli, una giovane operaia di Milano, che appena 20 anni venne uccisa dagli squadristi fascisti. Qual è la peculiarità di questo soggetto, di questo fatto? È che a tutti gli effetti è stata la prima vittima dello squadrismo fascista in Italia, perché il suo assassinio risale appunto al 14 aprile 1919, non era passato neppure un mese dalla fondazione dei fasci di combattimento a Milano. Normalmente nei libri di storia si racconta che le prime vittime furono due socialisti uccise dai fascisti durante appunto l'assalto alla redazione del giornale socialista L'Avanti, ma in realtà poche ore prima era stata uccisa Teresa Galli, che faceva parte di un corteo partito dalla periferia di Milano, ma che stava arrivando nel centro di Milano, un corteo formato da socialisti rivoluzionari e anarchici che protestavano contro l'uccisione appena il giorno prima da parte delle forze di polizia di un operaio socialista, e volevano portare appunto la loro protesta nel centro di Milano, in Piazza Duomo, che era appunto il luogo della borghesia, il luogo del potere. Ecco, questo corteo verrà assaltato, attaccato dalle squadre fasciste partite dalla redazione del Popolo d'Italia, giornale di Mussolini, il loro attacco si svolgerà con tecnica militare, perché addirittura verranno non solo sparate dei colpi di pistola, ma addirittura tirate delle bombe a mano contro i manifestanti e le manifestanti. E in questo scontro, in questo assalto, muore Teresa Galli, questa operaia tessile, colpita alla testa da un proiettile sparato dai fascisti. Quindi a tutti gli effetti la prima vittima del fascismo in Italia è stata una donna, e non solo una donna, ma un'operaia e anche evidentemente una sovversiva, dato che stava partecipando a un corteo non autorizzato, a un corteo di sovversivi. E qua c'è la cartina al tornasole, e poi per la lettura di quello che è stato il movimento fascista, perché fin da subito evidentemente ha dimostrato, proprio a partire da questo assassinio, la propria natura, la propria vocazione, il proprio ruolo, ovviamente controrivoluzionario, antioperaio, antiproletario e non ultimo anche antidonna, quindi con logica patriarcale, con logica sessista, logica maschilista. Quindi dentro la figura di Teresa Galli si possono intravedere, c'è la possibilità di leggere appunto diverse cose, non solo dalla parte appunto della vittima, ma soprattutto da parte degli aggressori, che in questo modo rivelano appunto a meno di un mese dalla fondazione dei fasci di combattimento quello che sarebbe stato il fascismo da lì fino per un ventennio, insomma. E era importante sottolinearlo, perché appunto la figura di Teresa Galli di solito non figura nei libri di storia. Potrei anche fermarmi qua, però, e passare la parola a Martina, però mi piace, visto che io sono un fiorentino trasferito a Livorno e Martina è una livornese trasferita a Firenze, mi piace concludere appunto questa breve introduzione parlando di due livornesi, di due antifasciste, ovviamente entrambe schedate al casellario politico per la propria attività sovversiva e in particolare la propria attività antifascista. Una è Lina Ranucci, cerchiamo di non usare le formule da carabinieri, Lina Ranucci, che è una comunista che opera in clandestinità in provincia di Siena, pur essendo livornese, che a un certo punto finisce nelle maglie della repressione e viene arrestata assieme anche al suo compagno, anche lui militante comunista. Ecco, la cosa divertente è che probabilmente, anche utilizzando un po' quello che era il pregiudizio dominante per cui una donna non poteva avere una propria attività decisa, scelta, espressione della propria determinazione, questo aspetto qua in qualche modo Lina Ranucci se la gioca, mentre in galera finge un proprio pentimento e alle suore che in qualche modo svolgono il ruolo di secondine, fa capire che in qualche modo lei si è pentita, si è redenta, addirittura si è avvicinata alla religione cattolica, e che tutto sommato la sua attività di comunista in clandestinità era dovuta al fatto che aveva sposato un comunista. Questo gioco in qualche modo funziona e lei in qualche modo riuscirà ad uscire dal carcere e tornare ovviamente a svolgere attività clandestina. La sua recita era stata talmente convincente che addirittura alcune sue compagne ci avevano creduto. Poi dopo la liberazione si ritroveranno e si faranno quattro risate, e la linea dirà: ci avevate creduto, ma in realtà le mie idee sono sempre state quelle e la mia attività non era mai cambiata. Ultimissima citazione, anche perché riguarda una militante antifascista che è ancora viva, seppur con i suoi belli annetti, è Silvana Simonetti, e questa compagna viene intervistata nel 2004 da una ricercatrice che è Laura Antonelli, e dopo appunto aver raccontato le sue esperienze di resistenza antifascista, il fatto che lei veniva da una famiglia socialista, il fratello addirittura Sergio era morto nel lager di Mauthausen, a un certo punto appunto ad una domanda rispetto a come la pensasse oggi, come vedesse il mondo, la sua risposta era in livornese: appunto, le viene chiesto in particolare se avrebbe rifatto la resistenza, se avrebbe fatto quella che aveva fatto durante quegli anni, e lei risponde: sì sì, anche ora, guardi, se non fossi vecchia, l'ardore lo sento io, le rifarei le rivolverate io. E quindi su questa battuta, che in qualche modo rappresenta anche una continuità tra la resistenza di oggi e la resistenza che non ha mai smesso di attivarsi anche dopo la liberazione, posso tranquillamente passare la parola a Martina. Gli applausi. Allora, grazie Marco per l'introduzione. E io, prima di cominciare a parlarvi del libro, siccome appunto parliamo di fascicoli del casellario politico, probabilmente nessuno di voi o pochi di voi l'avranno visto che cos'è un fascicolo, quindi io uso il fascicolo di Ranucci, anzi Lina Ranucci, e per farvi vedere cos'è appunto il ritratto parlato, che è quello che normalmente si trova nelle schedature. E quindi voi vi dovete immaginare che gli archivisti, che di solito fanno lavoro storico, quando appunto vanno a cercare le biografie delle donne e degli uomini schedati, trovano dei veri e propri fascicoli, che sono gli stessi fascicoli che insomma tutti conosciamo, no? Dentro questi fascicoli ci sono immediatamente le foto di fronte e di profilo, che è appunto la classica definizione che viene data ancora oggi alle persone che vengono fermate o comunque alle persone che venivano schedate all'epoca. E è un ritratto parlato appunto perché non si limita semplicemente a aggiungere la fotografia ai primi dati biografici, ma a fare un'analisi di tipo proprio fisionomico. Quindi un po' quello che diceva Marco, c'è una correlazione, viene data una correlazione tra il comportamento, addirittura il modo di camminare, e l'attitudine morale delle persone, dei sovversivi e delle sovversive che vengono schedate. Questo perché in qualche modo c'è una continuità tra l'attitudine politica fascista e gli studi, che all'epoca erano abbastanza di moda, di psicologia criminale, in particolare quelle lombrosiane, per cui venivano utilizzati gli stessi criteri di schedatura che applicati anche a donne che poi verranno internate in manicomio, perché ci sarà una correlazione di fatto tra il sovversivismo femminile e le patologie di tipo soprattutto sessuale, che sono, diciamo, è il legame più forte che si ha quando si fa questo tipo di ricerca e che si riscontra in questo tipo di ricerca. E io, giusto per darvi due dati senza annoiarvi, però ci tenevo, visto che appunto siamo a Firenze e questo lavoro in realtà parla delle schedate veneziane, e per veneziane intendo non soltanto quelle nate a Venezia, ma anche quelle che a Venezia ci hanno semplicemente vissuto, quindi non ne erano nate ma ci sono capitate per vari motivi. Complessivamente, diciamo, nel casellario politico centrale le donne schedate sono poco più di 5.000. Quindi all'interno di questo ovviamente c'è una suddivisione per geografia. E per quanto riguarda la provincia di Firenze, complessivamente nella provincia di Firenze le donne schedate sono 121. Tra queste, in particolare, quelle nate a Firenze sono 53. Di queste ci sono 22 schedate per antifascismo generico, quindi senza un'appartenenza politica precisa, e 17 comuniste, 6 anarchiche, 6 socialiste e 2 repubblicane. Nel conteggio di queste 53 donne non ci sono quelle nate in altre regioni o all'estero, che però hanno, appunto, erano residenti a Firenze o hanno vissuto a Firenze. E di queste sono 10 antifasciste generiche, 3 comuniste, una socialista, una repubblicana e un'anarchica. L'anarchica è Maria Luisa Minguzzi, che probabilmente qualcuno di voi conoscerà, vedo che Consuelo dice di sì, e che appunto è stata, diciamo, la fondatrice della sezione femminile della Prima Internazionale di fatto a Firenze, e che con il marito Francesco Pezzi, che era un altro compagno anarchico molto, molto importante a Firenze tra l'altro, aveva in qualche modo costruito nella loro casa un rifugio per le lavoratrici e per i lavoratori di San Frediano. E questa sezione femminile della Prima Internazionale, che appunto viene costituita nel 1872, sarà quella che promuoverà 2 anni dopo, quindi nel 74, il primo sciopero delle sigaraie. E Maria Luisa Minguzzi è famosa, se si può dire così da un punto di vista storico, perché è ritenuta da alcuni storici quella che ha accompagnato Cafiero nei preparativi della Banda del Matese, anche se questo non è un fatto che storicamente è totalmente accertato, però ci sono delle testimonianze al riguardo. Quindi insomma è una figura che secondo me sarebbe interessante approfondire a Firenze, perché ed è stato fatto anche da alcune storiche, da alcuni storici, però diciamo una biografia forse particolare su di lei sarebbe interessante. E, quindi vabbè, questi per darvi 2 dati e non annoiarvi oltre. E per quanto riguarda la ricerca che ho fatto, in realtà un'avvertenza che mi sento di dare è che apparentemente potrebbe sembrare una ricerca sulle biografie delle donne, appunto, da cui ho raccolto i dati delle schedature del casellario. In realtà non è questo l'intento di questo lavoro, perché per ricostruire le biografie delle donne sovversive è sempre buona norma non affidarsi completamente o soltanto alle informazioni poliziesche, perché ovviamente ci sono delle considerazioni, soprattutto i fatti che vengono riportati non sono sempre attendibili, soprattutto non sono neutri, come vedremo. Quindi il mio intento non era quello di ricostruire la veridicità delle biografie di queste donne, quanto piuttosto quello di fare cambiare prospettiva e analizzare lo sguardo di chi le schedava. Quindi in realtà lo sguardo è più rivolto verso chi era il compilatore, non verso l'oggetto della compilazione. E questi compilatori, che appunto sono spesso, come diceva Marco, degli impiegati di ufficio piuttosto oscuri, nel senso proprio dell'oscurità, dell'essere dei personaggi con delle attitudini politiche che erano poi quelle del periodo che vivevano, comunque erano veri e propri, erano interni organici all'ideologia fascista. Quello che è stato il mio intento era capire quanto la collocazione ideologica di ogni singolo estensore dei fascicoli, la cultura, il pregiudizio e l'attitudine politica di queste persone, in qualche modo suggerisse motivazioni e moventi non soltanto al controllo di queste donne, ma anche al modo in cui venivano definite, venivano in qualche modo poi schedate. E quello che esce fuori è inevitabilmente uno spaccato piuttosto evidente di tutto quello che in qualche modo era il pregiudizio maschilista, ma insomma patriarcale, vorrei dire, nei confronti di queste donne schedate. Naturalmente anche qui do per scontato, ma lo dico, che ovviamente quando si parla appunto di patriarcato in questo ambito specifico, io do per scontato che insomma non è che il patriarcato nasce col fascismo, ovviamente lo precede e purtroppo lo supera storicamente, quindi in qualche modo il fascismo lo ha semplicemente utilizzato, come anche gli autoritarismi democratici fanno, voglio dire, nei confronti di tutto ciò che è autorità o autoritarismo all'interno della società. E quindi questo è un elemento che si riscontra in modo molto chiaro nella schedatura di queste donne, delle quali io vi leggo, che forse è la cosa migliore e anche la cosa più divertente da un certo punto di vista, diciamo, quelle che erano le definizioni che venivano ripetute, perché in realtà ci sono delle caratteristiche comuni nella definizione delle sovversive, il casellario, che generalmente vengono definite se sono monogame, delle mantenute. Se non sono monogame, sono delle prostitute, e comunque vengono definite squilibrate, suggestionabili, nevrotiche, isteriche, che è appunto una delle categorie psicologiche più utilizzate anche da un punto di vista, diciamo, lombrosiano, ancora oggi viene utilizzato tra l'altro. Non si pensi che questa attitudine di schedatura sia, come dire, qualcosa di, che si può relegare nel passato, perché casualmente la questura di Imperia, e siamo al 21 maggio del 2015, ferma una donna, per dirvi nell'attualità quello che succede, ferma una donna, la polizia di frontiera la ferma, una donna con pregiudizi penali sulla quale pendeva un ordine di carcerazione. Ma quello che è interessante è il modo in cui la polizia di frontiera definisce il motivo per cui viene fermata questa donna. E allora si dice: munita di una sola fotocopia di carta d'identità, la donna colpiva l'attenzione degli agenti per quel non so che nello sguardo, un qualcosa di indefinito che pure spesso appartiene a chi ha già avuto a che fare con la giustizia, tanto da indurre i poliziotti a più approfonditi controlli presso gli uffici di Piazza Libertà. Quindi questa donna viene fermata sostanzialmente per quel non so che dello sguardo, quel non so che però fa tanto criminalità, insomma. E tra l'altro sia appunto gli uffici di Piazza Libertà, è abbastanza significativo. Quindi appunto vi do qualche esempio più chiaro, più eloquente di come venivano schedate queste donne e insomma per addentrarvi meglio in questo tipo di schedature. Allora, per esempio, Elvira Pilon, che è una donna, una socialista che viene schedata addirittura nel 1911, quindi lei viene schedata precedentemente al regime fascista e poi continuamente attenzionata anche successivamente. E Elvira Pilon è oggetto di attenzione da parte della polizia perché nel 1911 aveva tentato di riunire in una conferenza privata alcune donne presso la Camera del Lavoro di Venezia per organizzare una protesta femminile contro la guerra dell'Italia antripolitania, quindi è un antimilitarista praticamente della prima guerra. Tra le espressioni e definizioni che vengono date si dice che ha un'andatura altera e un'espressione energica. Ma la cosa più bella, secondo me, è la descrizione fatta da compilatori del fascicolo a lei dedicato. E si dice: la Pilon Elvira, giusto appunto per ricordare che il poliziotto, il carabiniere, l'estensore mette sempre il cognome prima del nome, la Pilon Elvira è una nevrotica che, sdegnando le frivolezze dell'età e del sesso, si entusiasma per gli ideali socialisti. Questa è la prima definizione che viene data di questa donna, che viene poi definita di carattere sprezzante e altero, e verso le autorità tiene contegno sprezzante. Però è abbastanza significativo il fatto che l'ideologia fascista, che insomma ha sempre, come dire, sostenuto l'importanza dell'attitudine muliebre della donna sana di principi, monogama e fedele, di fatto nei confronti di una donna socialista si chiede perché avrebbe sdegnato le frivolezze dell'età e del sesso, come dire, no? Cioè, nel caso della socialista il fatto di essere impegnata politicamente viene vista come una doppia perversione, no? Da una parte è perversa perché ha un'attitudine politica e fa militanza politica, dall'altra è perversa perché sdegna le frivolezze dell'età e del sesso. Quindi, e comunque questo è tutto nel fascicolo di questa compagna. Altre abbastanza significative tra le schedature, tra le quelle più significative c'è quella dell'anarchica Irma Zanella. Irma Zanella che viene schedata come comunista anarchica, ma di fatto è un'anarchica, che nasce ad Adria, ed è inizialmente schedata e tra la professione esercitata inizialmente viene scritto casalinga. In realtà non è casalinga, perché l'estensore del fascicolo si chiede come faccia a campare una che non è sposata e che non lavori, e quindi ovviamente immediatamente pensa che questa era una prostituta, e quindi scrive: nel pubblico riscuote cattiva fama perché abitualmente dedita alla prostituzione clandestina. Ricordatevi clandestina, che poi di carattere impulsivo, ha poca educazione e cultura, avendo frequentato la sola quarta classe elementare, ma è dotata di intelligenza non comune. Poco amante del lavoro, ritrae mezzi di sostentamento dalla prostituzione. E poi si scrive che questa donna è stata in corrispondenza epistolare con militanti, perché era una compagna, quindi aveva, come dire, relazioni epistolari con i compagni con cui si relazionava politicamente, che però vengono immediatamente definiti già suoi amanti. Quindi questa donna non poteva avere un rapporto epistolare con compagni se non dietro, come dire, un'attitudine di tipo sessuale. è dotata di singolare scaltrezza e soprattutto è ritenuta capace di complottare e commettere qualsiasi atto contro il regime. Successivamente si va avanti e si scrive ancora: dall'ignobile sfruttamento di se stesso, io vi ricordo che nel regime fascista la prostituzione era legale, cioè non è che non c'era, però lei era una cioè lo faceva in modo clandestino, quindi era un ignobile sfruttamento di se stessa, perché non dava soldi allo Stato, cioè c'è questo l'elemento. Quindi dall'ignobile sfruttamento di se stessa approfitta anche per scopi politici, facilitata in tale subdola e pericolosa azione dall'esercizio della prostituzione clandestina, che la pone in grado di avvicinare persone di qualsiasi posizione sociale e di qualsiasi età e sentimento politico. Viene ritenuta pericolosa anche perché facilmente assoggettabile alla volontà di qualche faciloroso. Quindi anche in questo caso, in realtà, questa donna, che poi nessuno sa se effettivamente facesse la prostituta, anzi è anche altamente probabile che non lo fosse. Quello che è incredibile è che viene ritenuta comunque assoggettabile alla volontà di qualche facinoroso, quindi anche in questo caso non è anarchica per convinzione, è anarchica perché è suggestionabile, no? Torniamo al discorso che vi dicevo prima, insomma, che ricorre molto spesso nelle schedature di queste donne, delle sovversive in generale. Un'altra compagna, che è Maria Ottaviano, che è sposata con un altro compagno, di lei si evidenzia immediatamente che dal matrimonio non sono nati figli, come se fosse un dato che, come dire, deve riguardare la sua attitudine sovversiva. È definita squilibrata, è di pessima condotta morale e civile e gode di cattiva fama nell'opinione pubblica. È di carattere leggero e neuropatico, di scarsa educazione, di poca intelligenza, di nessuna cultura, senza beni di fortuna e dedita all'ozio. È la mantenuta di un impiegato ferroviario, quindi non è la compagna, ma è la mantenuta di un impiegato ferroviario. Si è sempre comportata male verso la famiglia ed è responsabile morale dell'uccisione dei propri genitori avvenuta ad opera del proprio marito, attualmente detenuto. Ritiensi capace di qualsiasi azione delittuosa, dato il suo comportamento suggestionabile e la sua ignoranza. Quindi quando sono troppo colte, in qualche modo non sono autonome e vengono condizionate dai fratelli, dai mariti, dai padri, eccetera. Quando sono ignoranti o comunque non hanno cultura, sono suggestionabili. In ogni caso le donne schedate nel casellario non hanno nessuna autonomia di tipo politico, di scelta. Naturalmente anche in questo caso, ora, la responsabilità morale dell'uccisione dei propri genitori, diciamo, è quantomeno discutibile, perché di fatto lei poi non è stata neanche incriminata per questo, quindi è una considerazione di nuovo che fa l'impiegato che scrive e che stende appunto il fascicolo di questa donna. Altre cose abbastanza, non vi sto a leggere tutti perché sarebbe lunghissimo, ma un'altra cosa piuttosto significativa è l'attitudine provocatoria che le donne, le sovversive in particolare, hanno nei confronti delle forze dell'ordine, in generale verso i fascisti. Questi atteggiamenti vengono sempre sottolineati dai compilatori e vengono sottolineati dando a noi la possibilità di capire come le donne, pur avendo poca libertà in quel momento, insomma, potessero provocare con un atteggiamento appunto riottoso o poco, diciamo, incline all'ordine. Ad esempio, una compagna che è stata confinata a Ponza, nell'isola di Ponza, sventolava dei fazzoletti con grande entusiasmo per salutare i confinati che rispondevano al proprio saluto. E questi fazzoletti erano di color rosso. Altre donne che sempre in confino volevano in qualche modo provocare una reazione o comunque volevano rivendicare la propria intransigenza politica si vestivano di rosso camminando per le strade delle zone di confino. E questo, diciamo, era oppure rientravano in fretta quando all'avvicinarsi dei cortei ufficiali dovevano, in realtà, invece di stare al loro posto e, diciamo, di salutare l'arrivo del corteo, si ritiravano in fretta in casa mostrando le spalle con ostentato disprezzo. Quindi queste sono, diciamo, quelle che sono, diciamo, le evidenze che io ho riscontrato, ma insomma si scontrano anche anche nelle indagini che si possono fare su altre schedate. Mi viene in mente anche le schedate di Livorno, ci sono degli elementi che ricorrono spesso e che sono appunto legate comunque alla negazione di un'autonomia di fatto delle compagne, delle sovversive. che vengono ritenute, come vi dicevo e come abbiamo anche un po' in parte visto, incapaci di prendere una decisione autonoma, appunto in alcuni casi quasi con uno sguardo paternalista, mi verrebbe da dire, vengono ritenute suggestionate dai padri, dai fratelli, quindi in qualche modo non c'è mai un'attitudine autonoma. E questo elemento tra l'altro si riscontra anche in altre indagini che vengono fatte non nei confronti delle antifasciste ma nelle nei confronti delle donne della lotta armata, in particolare negli anni 80 in Italia, dove ad esempio una ricerca che è stata fatta uscita nel 2012 di uno storico che si chiama Giovanni Maria Ceci. Secondo questo storico il fratello ha condizionato le sorelle, ma mai le sorelle hanno condizionato il fratello nell'entrata ad esempio dentro i partiti di lotta armata. Quindi di fatto c'è sempre un atteggiamento unilaterale e che vede sempre la predominanza maschile nella scelta, comunque di donne che non scelgono ma di fatto seguono l'indirizzo di familiare. E questo, diciamo, per quanto riguarda l'analisi, diciamo, del sessismo all'interno delle schedature del casellario politico. Però il problema, diciamo, non si risolve, se vogliamo allargare lo sguardo, semplicemente guardando quanto il fascismo potesse essere autoritario nei confronti delle donne, perché in realtà il problema del sessismo, il problema, diciamo, del legame patriarcale che in qualche modo dilagava a livello sociale all'epoca, allora si rintraccia purtroppo anche nelle fila partigiane. Quindi le donne che si sono in qualche modo poi impegnate alla lotta antifascista sono dovute scontrare con un pregiudizio che di fatto restava, permaneva e si riduplicava anche all'interno delle componenti e delle bande partigiane. E questo è un elemento che diciamo la storiografia sta iniziando ad approfondire nell'ultimo periodo, perché quello che è stato diciamo forse il limite più grosso di una certa storiografia, soprattutto la storiografia femminista degli anni 70 legata al pensiero della differenza in particolare, è quello di aver indugiato molto nel sottolineare un'immagine di combattente, di donna antifascista, di militante antifascista, soprattutto negli anni appunto precedenti alla negli anni precedenti alla liberazione, come delle donne che in qualche modo replicassero lo stesso modello di cura che poi era quello tipico del fascismo. E mi viene in mente ad esempio la storica Marina Addis Saba, che in uno dei suoi libri più famosi, che è La scelta, racconta come le motivazioni che hanno portato le giovani donne a abbracciare la causa antifascista non siano state delle motivazioni, diciamo, di tipo rivoluzionario, ma al contrario delle motivazioni trovate all'interno dello stesso fascismo. E lei ovviamente porta delle fonti di testimonianza indiscutibili, perché sono delle fonti di interviste fatte a delle donne che hanno effettivamente avuto quel tipo di percorso. Ad esempio, una ragazza di Alba, che era molto attiva come staffetta partigiana, racconta che, e dice esplicitamente, il fascismo mi ha insegnato ad amare la patria, mi ha insegnato che la patria deve essere libera, indipendente, e che lo straniero se ne deve andare. E più esplicitamente dice, è stata l'educazione fascista che ho avuto a scuola che ha deciso del mio ingresso nella resistenza. È paradossale, può essere assurdo, ma è così. E questa lettura, che io trovo abbastanza parziale, in realtà è sconfessata in parte dalle antifasciste schedate nel casellario, perché come abbiamo visto, molte antifasciste schedate nel casellario politico in realtà diventano antifasciste ben prima dell'8 settembre del 43, quindi in realtà le motivazioni non erano motivazioni legate all'opposizione all'invasione nazista e quindi in qualche modo all'idea di dover cacciare l'occupante dal territorio italiano. Ma al contrario, quello che si vede, che si riesce anche a, diciamo, facilmente a indagare, è il fatto che i modelli che hanno esercitato delle influenze di resistenza nell'immaginario femminile erano quelli che venivano descritti nei giornali antifascisti dell'epoca, che erano quelli delle donne della rivoluzione russa o le miliziane spagnole della guerra civile. Quindi in realtà non erano diciamo motivazioni che uno rintracciava all'interno dell'amore per la patria, che pure in parte può essere stato un movente per alcune, ovviamente. Ma questo elemento, secondo me, si iscrive un po' in quella ricostruzione, quella storiografia nazional-patriottica della resistenza che insomma ancora oggi ci trasciniamo, e che in realtà legge la resistenza in una forma soltanto, cioè come la lotta, diciamo, per la liberazione appunto dall'oppressore, mentre invece la guerra civile in Italia ha avuto tante voci e anche tante prospettive. E ovviamente le donne e gli uomini antifascisti non hanno combattuto soltanto, o almeno semplicemente alcuni, e alcune per avere una patria democratica, alcuni hanno combattuto un ideale rivoluzionario, magari non avevano nessuna intenzione, come dire, di liberare semplicemente il proprio paese dall'occupante. Quindi questo è un limite, secondo me, di quel tipo di storiografia. L'altro limite, sempre dato da questo stesso tipo di approccio, è il fatto appunto di aver molto valorizzato le donne che facevano le staffette in particolare, perché avevano apparentemente un ruolo non combattente, ma quando invece insomma le staffette avevano un ruolo combattente tanto quanto le altre, però non avevano le armi. Quindi le donne in armi vengono sempre in qualche modo ridimensionate nella storiografia. E invece da quelle che sembrano essere le ultime ricerche storiche fatte anche da altre compagne, penso ad esempio a Lidia Martin, che ha fatto dei bei lavori su questa cosa, sembra che invece il numero di donne che hanno preso le armi e che quindi hanno sparato e di fatto hanno ucciso durante la resistenza siano stati più numerosi di quello che inizialmente si pensava. E questo ridimensionamento del ruolo armato delle partigiane a favore di quello che si era chiamato appunto il maternaggio di massa, che era di fatto quest'idea per cui le donne erano sostanzialmente delle affiancatrici dei combattenti, no? Erano quelle che ad esempio davano, fornivano i vestiti civili ai disertori per farli scappare, erano quelli che si preoccupavano di appunto di affiancare i propri compagni facendo le staffette. È un tipo di atteggiamento che, come dire, è un tipo di lettura che non è che non ci sia, evidentemente c'era ed è stata anche cospicua, ma non è completamente l'unica lettura possibile data dallo studio storico della resistenza. E tra l'altro ci sono delle biografie che su questo parlano e secondo me dicono anche molto rispetto al fatto che, sebbene armate, le donne non perdono la loro sensibilità, cioè continuano comunque ad avere uno sguardo che mantiene un'etica, un'etica che è un'etica, diciamo, che tiene presente un fatto elementare molto importante, cioè il fatto che la violenza di per sé non viene mai ritenuta una mitizzazione o un valore in sé, ma viene considerata come uno strumento che malgrado tutto in alcuni casi deve essere usato, quindi non c'è mai, come dire, un'attitudine violentista, si potrebbe dire così, ma tenere sempre presente che c'è un peso e una misura, cioè quando va usata si usa, quando si può evitare è meglio evitarla. Quindi c'è questo elemento, insomma, che secondo me dà un'etica e una morale diversa all'attitudine partigiana rispetto ad esempio al comportamento dato dalle donne e dagli uomini fascisti, che non hanno mai avuto problemi a torturare e a comunque perseguitare senza nessun tipo di cioè con un atteggiamento deumanizzante nei confronti del nemico di fatto. E questo secondo me da un punto di vista morale, insomma, è importante rimarcarlo. E su questo, diciamo, c'è ad esempio l'autobiografia di Giovanna Zangrandi, che è molto bella, che è lo pseudonimo di Alma Bevilacqua, in realtà, che è una partigiana che ha lavorato, diciamo, come combattente in Cadore, che è una zona, diciamo, una zona montagnosa del Veneto, e che si trova di fatto a dover lavorare per attentare alla vita del ministro di Salò Pavolini. E purtroppo lei, che fa l'insegnante per sopravvivere in quei giorni in Cadore, tra i suoi allievi ha proprio il figlio di Pavolini, e questa cosa la mette in una condizione piuttosto tormentata, perché comunque si trova davanti quello che potrebbe essere un futuro orfano. E quindi nella sua biografia, pur mantenendo la sua determinazione sull'obiettivo e ritenendo di non dover fare un passo indietro rispetto a questo, è certo che però si rende conto che, insomma, gli occhi di questo bambino che la guarda tutti i giorni e che è anche simpatico, e la fa tremare, cioè non è una, diciamo, è una scelta che comunque crea un travaglio. E questo secondo me dice anche molto sul fatto che il timore che certa storiografia, insomma, ha evidenziato nel togliere attenzione verso le donne armate, in realtà non era fondato, perché non è che c'è quasi un atteggiamento, c'è quasi una considerazione, una paura, no? Nel pensare alla donna armata come una donna deumanizzata, cioè come una donna defemminilizzata che non ha più quella sensibilità che la contraddistinguerebbe, quando in realtà la violenza, insomma, bisognerebbe iniziare a farci i conti, è insita naturalmente negli uomini tanto come nelle donne, quindi di fatto, voglio dire, non ha una connotazione di genere, poi viene agita da un punto di vista di genere in un modo o in un altro, ma questa è una costruzione culturale che non ha niente a che fare con le attitudini personali, no? E, insomma, per farla anche un po' breve, quello che è anche abbastanza interessante legato sempre a questo tipo di ragionamento sulla violenza e sulla questione delle armi agite dalle donne, C'è stato un dibattito breve che non si è mai concluso, aperto negli anni Ottanta, tra appunto le partigiane sopravvissute appunto alla Resistenza e le donne della lotta armata degli anni Ottanta e le femministe dell'epoca. E questo dibattito, che è appunto piuttosto esplosivo, è stato richiuso immediatamente perché provocava troppe fratture e troppe tensioni tra le donne che avevano iniziato a parlarsi, dice delle cose interessanti. Dice ad esempio che le partigiane, ripensando a quello che era stata la propria esperienza, raccontano come avevano vissuto da donne la loro partecipazione alla Resistenza. Ad esempio, una partigiana milanese ricorda e dice: nella lotta armata, per quanto riguarda le armi, non c'è nessuna differenza tra uomo e donna. Quando ti lasciano sparare, spari tranquillamente, almeno per quello che riguarda la mia esperienza di allora. Altri invece in realtà si confrontano con una cosa diversa. C'è ad esempio un'altra donna che dice, ripensando al fallimento poi dell'esperienza rivoluzionaria dell'insurrezione antifascista, e dice amaramente: tutto quello che noi abbiamo vissuto a lungo e tutte le nostre speranze sono finite. Per noi donne della Resistenza è fallito tutto. Di fronte alla violenza del fascismo non avevamo che una scelta, quella di andare con i compagni. Ma anche da parte dei compagni la violenza c'è sempre stata, noi donne l'abbiamo sempre subita. E aggiunge: noi partigiane facevamo una ricerca come donne e come compagne, e dentro di noi, nella ribellione, trovavamo molte forze vitali, ma siamo state tradite e deluse dal compagno nemico. E tra gli appunti di un'altra partigiana, che poi diventa appunto femminista, racconta rispetto, diciamo, al rapporto con quella che era la lotta armata dell'epoca, quindi si parla degli anni Ottanta, e lei dice: la mia identificazione con loro, cioè con le donne della lotta armata italiana degli anni Ottanta, è un momento che prescinde dal tempo e dal luogo della storia, almeno dalla situazione storica. E poi lei racconta: sono entrata nella Resistenza perché ero antifascista. Avevo 17 anni, l'oppressione fascista era nella società in cui vivevo. Una famiglia ferma, immobile, non una famiglia di antifascisti. Una famiglia adagiata nelle cose che esistevano, i problemi mediocri. Una bambina e una ragazza poi che non accettava il ruolo che la famiglia le imponeva e non accettava l'ideologia della famiglia. La ribellione era questa, e in quel momento prendere le armi faceva parte di questa ribellione. 30 anni dopo, non lo so. E quindi c'è questo dibattito che appunto assume immediatamente anche delle connotazioni di tensione. D'altra parte il femminismo, diciamo, più dominante dell'epoca, insomma, aveva molto poco compreso in realtà il motivo per cui tante donne in realtà avevano poi deciso di scegliere la lotta armata, pensando, liquidando, diciamo, in maniera molto semplicistica, secondo me, il fatto che, insomma, volevano essere come uomini sostanzialmente. Probabilmente le motivazioni in realtà erano più profonde e, insomma, non c'è stata la capacità di capirsi, di parlarsi. Un'altra, e poi chiudo anche veramente, un altro ammonimento che mi sembra anche saggio è che una partigiana ricorda rispetto a quella che era stata la sua esperienza e che vuole in qualche modo tramandare come avvertimento per le persone che all'epoca, insomma, avevano scelto la clandestinità, e riguarda la leggerezza con la quale la gente, insomma, parla normalmente di quello che fa politicamente, soprattutto quando uno non dovrebbe dire certe cose. E ve lo leggo perché, insomma, è breve e poi è molto significativo. Lei racconta: la cosa che ho scoperto dopo un po', una piaga terribile, è la leggerezza con la quale la gente parla e mette nei guai gli altri. Le donne lo fanno per il loro grande bisogno di parlare, di raccontare. Le donne hanno sempre bisogno di farlo. Gli uomini parlano delle loro imprese in giro perché sono investiti del loro ruolo. Gli uomini hanno sempre bisogno di esibirsi. Io stessa sono finita a San Vittore per una spiata. Ricordo due fratelli, tutti e due partigiani, che solo dopo la liberazione hanno saputo l'uno della scelta dell'altro. Non si erano mai detti nulla durante tutto il periodo della Resistenza. Ce n'erano altri invece che parlavano e lasciavano in giro tutto, così inguaiavano tutti. C'era un gruppo di compagni che si trovava tutte le mattine davanti a una tintoria con il bavero alzato e l'aria circospetta. Una mattina è uscito dal negozio la donna che stirava e gli ha detto: non so cosa facciate, ma guardate che date nell'occhio. Le stesse cose di oggi. Vedete, questi poi delle BR, poi scrivono tutto, parlano ad alta voce nei ristoranti, questi ragazzi, fanno delle cose da ragazzi. Questo esibizionismo è tragico. A parte questo paradosso, sarei delle BR dalla mattina alla sera, per tutto quello che mi circonda. Io ho molta nostalgia di quei momenti, e questo mi ricorda molto quello che appunto Marco aveva citato alla fine della partigiana, che appunto dice in livornese: io, insomma, e me la sento ancora, e se c'è da sparare, e sarei anche pronta. cioè, ci sarebbero anche tantissime altre cose da dire, però magari se abbiamo un po' di tempo, ce l'abbiamo, sì, un quarto d'ora, 10 minuti. Se qualcuno magari vuole intervenire, vuole dire qualcosa, magari lasciamo spazio anche agli altri. Sì, scusate, una domanda per Marco, che ricordava appunto la prima vittima delle squadre fasciste. Si sta parlando a questo punto di 99 anni fa, se i miei calcoli sono esatti. E quindi, per dare intanto un attimo a Martina di prendere fiato, volevo chiedere invece a lui, dico, ti sembrerebbe oggi che l'atteggiamento delle spie della polizia, delle informative, dell'intelligence, eccetera, eccetera, potrebbero avere un atteggiamento simile dal punto di vista della composizione sia di genere sia numerica delle frange di opposizione? Ma la domanda è un po' complicata, nel senso anche perché io cerco di fare lo storico, per cui ho sempre bisogno anche di un minimo di distanza da quello che avviene. Cosa possiamo capire rispetto se si fa un raffronto con quello che successe quel giorno a Milano vicino alla loggia dei mercanti? Io vedo soprattutto una analogia a livello di dinamiche di piazza. Tra il corteo dei socialisti e degli anarchici che arrivava verso Piazza Duomo e i fascisti organizzati, armati, bombe a mano, eccetera, eccetera, che partono dalla redazione del giornale di Mussolini, c'è uno schieramento di forze dell'ordine, militari, poliziotti e carabinieri. Ecco, come succede tuttora, la forza di interposizione da parte dello Stato si dimostra assolutamente inesistente se non complice direttamente con le squadre fasciste. Sono gli stessi fascisti che dicono non abbiamo avuto nessun problema rispetto al cordone di polizia che ci divideva dal corteo socialista. Rispetto poi come oggi gli organi di polizia, gli apparati vedono gli oppositori, mi sembra appunto anche casi abbastanza recenti, quello che è successo in Val di Susa, che è successo a Bologna in occasione di operazioni repressive, beh, la logica è sempre quella, quindi il soggetto, se è donna, ha un'attenzione, prima ancora che di tipo politico, di tipo morale, per cui appunto, si mette in evidenza che il comportamento di quella sovversiva è innanzitutto strano, è atipico, è degenere, ha dei comportamenti sessuali fuori dalla cosiddetta normalità. Quindi si rientra sempre in una lettura che è condizionata evidentemente da una cultura sessista dominante. Quindi, appunto, i casi sono sempre quelli, le dinamiche sono sempre quelle, anche se appunto poi la storia è diversa, i fatti ovviamente non sono mai identici rispetto a quelli che sono avvenuti quasi appunto 100 anni fa. Però è interessante poi vedere appunto le dinamiche. D'altra parte appunto la logica dello Stato rispetto al fascismo non è mai mutato, neanche appunto dopo la liberazione, per cui la famosa continuità tra lo Stato fascista e lo Stato democratico ormai è storia, appartiene ai libri di storia, per cui non c'è niente di cui meravigliarsi. Colgo l'occasione di avere ancora il microfono in mano per ricollegarmi al discorso che faceva Martina rispetto ai problemi che emergono durante la resistenza, no? Rispetto alle donne che partecipano alla lotta armata e ai movimenti popolari di opposizione. Ed è una precisazione anche rispetto a quello che ha scritto nel libro, perché noi abbiamo a suo tempo verificato che nelle repubbliche partigiane, ossia quelle esperienze di autogoverno che in alcune zone, in numerose zone d'Italia, si verificano tra il 44 e il 45, anche se di breve durata, in cui appunto si tende di costruire una nuova società, una nuova realtà libera appunto dal dominio fascista, anche se appunto i fascisti sono attorno, circondano la zona e poi quasi sempre metteranno fine a queste esperienze da un punto di vista appunto militare, utilizzando appunto gli strumenti della guerra. Noi avevamo notato che appunto le modalità di autogoverno all'interno di queste micro società liberate non prevedevano ad esempio il diritto di voto per le donne, addirittura in alcuni casi a decidere sulla gestione di queste comunità, di queste appunto piccole repubbliche, addirittura venivano designati i capi famiglia della zona, neppure tutti maschi, i capi famiglia della zona, quindi ancora una volta si tornava a una logica patriarcale assolutamente intoccata, nonostante appunto il fatto che ci si trovasse dentro delle zone liberate dai partigiani, dentro cui appunto certi pregiudizi, certe discriminazioni uno si prefigurerebbe superati. Fa un'eccezione, questo è l'aspetto che abbiamo riscontrato, la Repubblica Partigiana della Carnia, quindi siamo in provincia di Udine, dove in effetti questa possibilità di voto per le donne ci fu, e probabilmente c'è anche l'influenza della forte presenza libertaria che era all'interno appunto di questa esperienza della Repubblica, della Libera Repubblica di Carnia. Poi vabbè, ci saranno dei ruoli anche importanti all'interno di alcune repubbliche partigiane, alcune donne in qualche modo svolgeranno dei ruoli importanti, però era interessante appunto sottolineare che la difficoltà appunto di adeguare rispetto appunto a quello che era la cultura che teoricamente doveva essere superata e passata e sepolta, anche all'interno appunto di una dinamica di liberazione qual era appunto quella di una repubblica partigiana. Sì, aggiungo qualcosa soltanto rispondendo. Sull'attualità c'è stato un caso, secondo me abbastanza emblematico, di una compagna che tra l'altro conosco, quindi anche un'amica in qualche modo, che avendo avuto problemi giudiziari abbastanza importanti anni fa è stata messa in carcere ed essendo una abbastanza in vista, diciamo, dal livello politico, una città in cui faceva militanza, è stata immediatamente dai giornalisti iscritta dentro un criterio piuttosto singolare di madre snaturata da una parte. Quindi la figlia, che all'epoca era anche molto giovane, non era neanche maggiorenne, con nome e cognome si è trovata sul giornale accanto al nome della madre, in cui appunto si declinavano tutte le non virtù di questa donna, che insomma in qualche modo non era stata una buona madre perché appunto era finita in carcere. E in aggiunta, giusto per tornare, diciamo, a quelli che poi sono i criteri che passano attraverso i secoli, veniva ritenuta essere sostanzialmente la donna che si gestiva i rapporti sessuali con tutti gli aderenti del centro sociale in cui militava, cosa ovviamente falsa, ma di fatto lei era quella più grande per età e quindi veniva ritenuta in qualche modo quella che attirava questi giovani dentro il centro sociale grazie alle sue capacità, come dire, di seduttrice. E insomma mi sembra emblematico perché c'è comunque un passaggio senza soluzione di continuità da prima del fascismo a oggi. Poi su questi esempi, insomma, di esempi del genere ce ne sarebbero tantissimi. Rispetto a quello che diceva Marco, un'altra cosa che mi sono dimenticata di dire, ma insomma è una cosa su cui si è discusso, ne abbiamo discusso insieme tante volte, e mi pare importante sottolinearlo, il fatto che quando appunto è avvenuta la liberazione ci saranno le prime parate di giubilo per la liberazione, di fatto le donne, ad alcune donne, in particolare di alcune brigate antifasciste, verrà chiesto di non sfilare in armi. E il motivo per cui verrà chiesto di non sfilare in armi è abbastanza significativo, perché di fatto lo si fece a quello che veniva detto dagli uomini che erano appunto quelli che dirigevano queste brigate, per tutelare la loro morale, la loro integrità morale. E sotto sotto in qualche modo si sottolineava: se sfilate in armi e si capisce che voi siete state in montagna con gli uomini, qualcuno potrebbe pensare che in realtà in montagna non avete fatto la guerra, cioè avete fatto altro. Quindi per salvaguardare la vostra integrità morale è meglio se vi vestite da Croce Rossina e le armi le lasciate. Insomma, su questo ci sono state delle ribellioni fortissime di donne che si sono imposte e hanno detto: no, cioè io vengo con le armi e se no me le levate. Io ci vado e insomma in qualche modo se qualcuno non è d'accordo mi disarmi, no? Insomma, questo è abbastanza importante ricordarlo. Tra l'altro, se non sbaglio, erano le brigate comuniste. Molto velocemente in realtà, anche perché volevo fare una domanda che era circa la stessa e è già stato risposto. Forse una piccola parte che manca, magari è quella che chiedo, e dalla parte dei nostri, cioè oggi, voglio dire, se ancora esistono evidentemente degli schedari ancora viziati di quelle cose che si rilevavano prima, la percezione nostra invece attuale, al di là di cosa è successo fra gli anni 50 e gli anni 80, voglio dire, arrivando a oggi, ci sono ancora queste patine da cui, insomma, voglio dire. Un'altra ancora, mi veniva in mente quando facevate qualche esempio lo sgombero che c'è stato l'anno scorso, anzi quest'anno, di Villa Panico, in cui era stato rilevato con decisione come le cape fossero femminili. Io posso rispondere per metà, poi passo a Martina, che forse è anche più preparata al riguardo. Io per motivi anagrafici, tra virgolette, ho vissuto, anche se ero abbastanza giovane, la fine degli anni 70, in particolare il 77 e anche gli anni successivi. Ricordo che da parte nostra, da parte di compagni impegnati appunto nelle lotte e tutto, il pregiudizio nei confronti del cosiddetto sesso debole era tutt'altro che tramontato. Io ricordo le logiche per cui appunto il servizio d'ordine doveva essere quasi sempre ed esclusivamente fatto da uomini che poi saranno ragazzi alla fin fine, e mentre invece le compagne magari erano in seconda fila con altri ruoli, con altri incarichi, con altri impegni. È sempre molto difficile scrollarsi di dosso queste cose, talvolta in cattiva fede, talvolta uno crede di in quel modo di agire non necessariamente con una logica discriminante, però poi alla fine il risultato è quello lì, insomma, tu sei in prima fila e le compagne stanno dietro. È una bella domanda, nel senso ci vorrebbe forse un'ora. E, diciamo, secondo me ci sono ovviamente delle differenze enormi rispetto, insomma, agli anni del periodo fascista, del periodo di cui parla il libro. Ci sono delle differenze anche rispetto agli anni 80, perché comunque, pur con tantissimi limiti, le compagne che oggi fanno attività politica hanno una consapevolezza diversa rispetto a quella che avevano le loro sorelle più grandi di 30 anni fa. E devo dire, in parte, anche alcuni uomini hanno una consapevolezza diversa di quello che è, diciamo, il lavorare politicamente, lo stare politicamente in uno stesso spazio con le proprie compagne di lotta. Questo non significa che i problemi non ci siano, nel senso, i problemi ci sono, e difficilmente, diciamo, negli spazi cosiddetti liberati le relazioni sono sempre fluide, cioè difficilmente non si hanno, non ci si scontrano, non ci si trova purtroppo a relazionarsi con diverse sensibilità, e in parte anche con una refrattarietà da parte di alcuni uomini di comunque prendersi carico di quella che è relazione paritaria, che appunto non è una relazione paritaria che, come dice Marco, poi alla fine per tutela inferiorizza di nuovo le donne, insomma, no? Il discorso del corteo, diciamo, era emblematico, ma ce ne sono tante altre, ecco, anche più semplici, no? Quindi diciamo è un discorso complicato che avrebbe bisogno di tempo per potersi sciogliere, che penso che comunque oggi, se c'è una soluzione e c'è una possibilità da parte delle donne di uscire un po' da questi contesti così asfittici che a volte si trovano, è il fatto comunque di uscire anche da un'idea un po' vittimista che si dà a spesso anche in una certa narrazione femminista, nel senso che c'è spesso la tendenza comunque a riprodurre un immaginario che è l'immaginario della donna vittimizzata dall'uomo. Ecco, io penso che se c'è la possibilità di uscire fuori anche da contesti appunto anche di sessismo nei movimenti, è quella che le donne in qualche modo inizino intanto a non concepirsi più come vittime, ma a prendersi in maniera più determinata, voglio dire, anche la propria responsabilità rispetto a certe situazioni, perché poi il vittimismo è un po' perverso, perché da una parte, come dire, tu effettivamente affermi un danno che subisci, però dall'altra è anche una comoda via di uscita rispetto a certe responsabilità che non ti vuoi prendere, per cui secondo me, insomma, essere adulte vuol dire anche uscire da questa cosa. Beh, questo è quello che penso io. E su tante altre questioni, insomma, ci sarebbe sulla questione del panico, io non so, nel senso, mi ricordo che sui giornali appunto era stata data molta enfasi al fatto che le donne più di età più avanzata, insomma, diciamo tra quelli che erano stati attenzionati alla polizia, erano donne, e quindi in qualche modo c'era stata molta enfasi su questo. È altrettanto vero che i giornalisti e la polizia si stupiscono abbastanza del fatto che in certi contesti politici le donne sono più numerose. E nel caso della Villa Panico, secondo me, era un po' questo, come anche in certi giri anarchici le donne sono più numerose rispetto agli uomini. E, come dire, è un dato di fatto che anche questo sarebbe interessante, secondo me, per noi capirlo, non nel modo in cui lo vogliono capire i politici e i giornalisti. Quindi senza fare il sensazionalismo, lo stupore, che cioè, francamente nel 2018 forse è anche l'ora di farlo, non farlo più. Quindi non ti rispondo del tutto perché non ho tempo di fartelo, la risposta più approfondita, però insomma, penso che se qui ci sono delle compagne che avrebbe, forse avrebbero anche da portare testimonianza, ma io ce ne avrei mille da dirtene, quindi boh, ne riparliamo un'altra volta. C'è un'ultimissima battuta, qualcuno, se no siamo un po' corti con i tempi e purtroppo faccio l'antipatico. Però, ok. Allora, ringraziamo tanto Marco e Martina, grazie a chi ha partecipato. Ora facciamo 4 minuti di pausa perché 5 sono troppi e poi partiamo con la presentazione di Guida alla Firenze Ribelle, Volando Edizioni, di Riccardo Michelucci, sempre qui in questa stanza. Buon proseguimento. Grazie.